Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. 20 città del nord-est per una notte, da Padova a Piombino Dese, da Venezia a Schio. 20 città in cui tra il 4 e il 6 maggio i protagonisti della Green Economy racconteranno idee, iniziative, progetti che sono nati in quella sorta di metropoli diffusa che è ormai il nord-est italiano. È la Notte Verde del nord-est, questo è il nome dell'iniziativa che cade all'interno del più vasto festival delle città impresa, Notte Verde del nord-est, di cui Radio 24 e Media Partner e a cui dedicherà, ve lo annuncio, uno speciale in diretta il 5 maggio dalle 21 alle 23 condotto dalla nostra Laura Bettini, uno speciale nel quale vi racconteranno molte delle tantissime iniziative che vengono presentate in queste 20 città. Noi invece questa sera incontriamo il presidente del comitato scientifico della Notte Verde, il professor Enzo Rullani, docente di economia della conoscenza e di strategie di impresa presso la Venice International University, dove supervisiona anche il laboratorio Network RNL che si occupa di comunicazione d'impresa del territorio. Buonasera Rullani. Buonasera. Allora, lei è tra gli ispiratori di questa iniziativa, non lo vuole dire, a me hanno detto l'ispiratore addirittura, ma va bene, con lei cercheremo di capire un po' che cosa c'è dietro questa iniziativa. Allora, mi permetta subito di chiederle una cosa: che cos'ha di diverso appunto questa iniziativa rispetto ai tantissimi convegni che ormai davvero affollano il calendario in Italia intorno alla Green Economy? Che cosa avete voi in più o di diverso rispetto agli altri? Ecco, credo che il punto chiave sia un po' la saldatura tra l'idea della green economy, la sostenibilità, la notte verde, tutti gli riferimenti al verde, insomma, e il programma, insomma, l'attività di quello che ogni anno si ripete, che è il Festival delle Città Imprese. Noi vorremmo che le città imprese fossero le protagoniste di qualcosa di importante dentro l'idea del green, e in questo caso appunto abbiamo pensato a questo appuntamento simbolico, la Notte Verde, in cui molti pensieri, molte persone in qualche modo trovano un significato comune, un'esperienza collettiva. Ecco, adesso poi cerchiamo di capire bene che cosa significhi città impresa e che parentela possa avere con un altro tipo di città, quella intelligente di cui parliamo noi in questa trasmissione. Però mi pare che uno dei dati più significativi è che qui è la provincia che parla, no? In questo festival soprattutto, non la solita grande città. Il punto chiave di questo festival, che ormai ha avuto diverse edizioni annuali, certo, è un po' di dare la voce alla periferia. Questo serve non solo per far conoscere la periferia del nord-est, diciamo, che rispetto ai baricentri dello sviluppo come Milano, Roma, anche Torino, insomma, è molto meno conosciuta. In un certo senso si conoscono i prodotti che vengono fatti dalle nostre aziende in giro per l'Italia e per il mondo, ma magari non si sa bene da dove vengano. In effetti, quando i nostri imprenditori vanno all'estero, la cosa curiosa è che quando gli dicono ma da dove venite, l'unica cosa che sanno dire, che l'interlocutore capisce, è veniamo da Venezia. L'identità nota del nord-est è Venezia. Ovviamente questo è un deficit di identità, perché non è solo che gli altri non ti riconoscono, è che tu non ti sai far riconoscere. Ecco, a che cosa serve farsi riconoscere? E in fondo è solo una questione di farsi riconoscere o è anche una questione di riconoscersi, cioè di riconoscere al proprio territorio una certa specificità? Perché forse qui ci stiamo avvicinando a questa idea della città impresa che vorrei che ci spiegasse. Giustissimo questo che ha detto, è proprio così. Se tu in qualche modo non riesci a farti riconoscere, è perché non riconosci te stesso, la tua identità. Allora, nel nord-est abbiamo avuto una grande trasformazione dei modi di vita, da un sistema che era povero, agricolo, è diventato un sistema abbastanza ricco, prima della crisi almeno, e molto orientato all'esportazione, a questa economia moderna. Ebbene, questa trasformazione non ha avuto ancora il suo codice culturale, non è stata ancora interpretata, vissuta come un'entità nuova. Ecco che quindi, in effetti, per esempio, le nostre imprese hanno il grave difetto che sono molto individualiste, perché pensano di aver prodotto il nuovo, di aver avuto successo, di riuscire a esportare, perché l'imprenditore è bravo, lui individualmente. E in qualche modo sparisce tutto il mondo collettivo da cui lui è nato, mentre questo mondo collettivo è importantissimo. E allora che cosa manca perché questo mondo acquisti valenza, diventi interessante anche per gli altri? Manca la capacità di raccontarsi, di darsi un'identità, di darsi dei concetti, dei nomi. Ecco, allora la città è ciò che manca all'impresa individualista che vorrebbe fino adesso vendere il suo prodotto, che siano i mobili o siano i vestiti, e non capisce che oggi deve vendere un'idea del prodotto, non il prodotto in sé, e nell'idea del prodotto ci sta da dove viene questo prodotto, con chi sono gli uomini che l'hanno fatto, qual è il loro modo di vivere, le loro abitudini, qual è la loro città. Ecco perché la città impresa è importante anche economicamente. Diventa un marchio, diventa insomma... un marchio complesso, no? Il marchio del prodotto. Sì. Un marchio che evoca dei significati. Degli stili di vita. Ecco, questa città impresa in che modo è imparentata con un'altra idea forte, che è quella della Smart City? Sì, la Smart City è l'idea di città che nasce dal fatto che ciascun abitante della città è in collegamento con gli altri grazie alle nuove tecnologie. Quindi questa città intelligente... in realtà no, non è altro che un modo, basato molto sulla tecnologia, di ottenere quella che potremmo chiamare una forma di intelligenza collettiva, cioè che tu sei come un neurone di un cervello più grande. Diciamo, la rete tecnologica è l'infrastruttura di base, però sopra, per farla funzionare, c'è bisogno di identità collettive, cioè c'è bisogno che la gente si riconosca e si fidi degli altri. C'è bisogno delle istituzioni che la guidino. Quindi ecco, la città impresa che cos'è? È il vedere l'impresa come un elemento unitario di una rete più partecipa grande, a uno sforzo collettivo, trascina dietro tutta la sua filiera, cioè i fornitori, i clienti, i distributori, ma trascina dietro poi anche le istituzioni della città, quindi il tipo di lavoratori che la città produce, le scuole, le università, i centri di ricerca. Quindi l'innovazione diventa un processo di sistema, ecco, non più un processo individuale. Grazie Enzo Rullani, allora, e buon lavoro. Arrivederci. Bene, se volete saperne di più sulla Notte Verde, vi ricordo lo speciale che Radio 24 dedicherà a questo tema il 5 maggio dalle ore 21 alle ore 23. Ci fermiamo qui, buona serata.